già mi sarò anche scordato di te. Troppe le cose che in testa han bisogno di me. Sembra già ieri che io non pensavo che te. Sento il sudore che sale e mi accorgo che questa salita è più forte di me. Ma nelle gambe c'è voglia di correre. Correrò fino a quasi trovarti, fermarti. Ci sarò a morire negli occhi che hai. Correrò come il vento di questo mattino. Nome che ti sentirò. Prenderò forza, lo sai, ogni tua esitazione. Contro il destino che il preme non può dirsi no.